Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di aziende, parliamo di imprese e parliamo in particolare di manager, perché il libro che è in primo piano è Il tradimento del manager di Michele Dau. Buonasera, professor Dau. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Michele Dau è stato amministratore delegato di società di engineering, è stato manager pubblico, ha svolto incarichi presso le grandi istituzioni nazionali, dal 2004 è vicepresidente del Comitato per lo Sviluppo Locale e il Lavoro dell'OCSE, è stato direttore di ricerca del Censis, diciamo così, conosce molto bene la realtà italiana. E allora iniziamo dal titolo, perché il tradimento del manager, Michele Dau? Ma il titolo non deve sembrare forte, anche perché stiamo vivendo una crisi veramente incisiva in Italia, ma anche in larghe parti del mondo. E il titolo vuol dire proprio questo, cioè che i manager hanno una grande responsabilità. Nella società moderna, da più di un secolo, hanno assunto una posizione fondamentale e anche in questa crisi hanno una grande responsabilità. E spesso si sono sottratti a questa responsabilità, al riconoscimento di questa responsabilità. Da qui la mia idea di dire, insomma, c'è un tradimento in atto che deve essere conosciuto e di cui bisogna prendere coscienza e sul quale bisogna lavorare, perché dei manager c'è bisogno. Certo, dei manager c'è bisogno di una classe imprenditoriale e manageriale che possa sfruttare le occasioni, sfruttare le opportunità, perché comunque anche in una crisi come quella attuale di opportunità ce ne sono, ma diciamo che la classe imprenditoriale e manageriale, soprattutto italiana, ha mostrato molti problemi negli ultimi anni. Non c'è dubbio, lei lo ha appena accennato, l'Italia poi si differenzia da altri paesi occidentali perché ha un enorme tessuto di piccolissime imprese e quindi a carattere familiare, e quindi la difficoltà anche di rendere questa gestione familiare, diciamo, razionale attraverso l'impiego di tecniche e di profili professionali manageriali. Ma adesso, a parte le caratteristiche italiane, la verità è che occorre una collaborazione, nel mondo moderno occorre una collaborazione più forte, più chiara tra la responsabilità dell'imprenditore e quelle di chi poi è chiamato a dare continuità razionale, continuità, diciamo, gestionale ordinata alla vita di un sistema produttivo, sia esso privato sia esso pubblico. Noi oggi parliamo un momento anche del pubblico, parliamo dell'inefficienza del pubblico, ma oggi come si fa a gestire l'area pubblica e i servizi pubblici senza capacità manageriali ordinate e razionali che rispondano non solo a criteri economici ma anche a criteri proprio di efficacia dei servizi che vengono resi per i cittadini, per le imprese. Quindi occorre che tutta questa cultura venga ordinatamente inserita. Purtroppo in Italia siamo anche un po' in ritardo perché non formiamo un numero di manager adeguati, non curiamo da tanti anni questi aspetti, ne parliamo molto nei convegni, negli articoli, ma... Ecco, si parla molto per esempio di responsabilità sociale dell'impresa, dell'esigenza delle imprese di aprirsi al territorio, alla società civile, di aprire un po' gli interessi dell'impresa anche in uno sguardo più ampio rispetto a quelle che sono le esigenze del profitto immediato, però forse se ne parla tanto ma i fatti non seguono. Ma vede, io penso che la prima responsabilità sociale dell'impresa è quella di rispondere alla sua missione, che è quella di produrre qualche cosa di valido per la comunità, per il mercato, per la comunità dei consumatori, qualcosa di valido, diciamo, che sia utile, che sia efficace, che corrisponda anche al prezzo che viene attribuito. E questa responsabilità sociale quindi non va vista in qualche cosa di più, in un orpello, in qualche attività filantropica. Per carità, è giusto che le imprese facciano anche questo, ma la prima responsabilità sociale è quella di assolvere al proprio dovere, alla propria missione di impresa, cioè essere impresa verso i consumatori, verso i propri lavoratori, verso i propri risparmiatori, verso i proprietari, verso quelli che mettono i capitali. Quindi avere questo senso di coerenza, di responsabilità verso quelli che danno le ragioni stesse alla vita dell'impresa. Ecco, c'è un capitolo di questo libro che si intitola L'illusione tecnocratica, in pratica l'illusione che possano essere dirette le imprese sulla base di parametri astratti e invece senza tener conto che il vero patrimonio delle imprese sono in fondo le persone, ma le persone non solo nel senso dei dipendenti quanto nel senso, appunto, dicevamo, dei consumatori, dell'ambiente esterno, dei risparmiatori, degli individui in pratica che possono ruotare attorno all'impresa. È veramente questa illusione uno dei problemi che l'Italia, il sistema italiano, si trova ad affrontare? Vede, se partiamo dal presupposto che ogni impresa, privata o pubblica, è comunque un bene collettivo, è comunque una risorsa del paese fondamentale, allora noi dobbiamo capire che qual è il valore di questa risorsa fondamentale. Il valore fondamentale è proprio il patrimonio delle persone che, come diceva lei, girano intorno a questa impresa, dentro e fuori da essa. L'illusione tecnocratica è quella idea nata circa 40 anni fa, alla fine degli anni 60, anni 70, che i sistemi complessi, la società che andava diventando complessa, si potesse gestire con regole astratte, con regole rigide, con meccanismi burocratici. Diciamo, usiamo questo aggettivo proprio anche nel senso delle strutture private. Noi sappiamo che molte aziende, anche private, grandi, hanno procedure burocratiche molto stringenti, non inferiori a quelle delle strutture pubbliche. Ma questa, di per sé, se viene coltivata questa illusione, appunto, come risolutiva dei problemi, mi sembra inadeguata. Non è, è sempre l'uomo che deve gestire i processi, che deve semplificarli nel raggiungere i risultati, che deve essere responsabile di questi processi. Non si può delegare a procedure, a meccanismi automatici, a meccanismi burocratici. Queste procedure, questi meccanismi sono a servizio degli uomini che lavorano in, certo, questa organizzazione. Ecco, un altro capitolo è il merito dimenticato, ma se noi guardiamo alle retribuzioni dei manager, vediamo che le retribuzioni sono cresciute, diciamo, molto più della media delle retribuzioni, quindi c'è stato un riconoscimento asimmetrico rispetto al merito, perché in situazioni di difficoltà comunque il riconoscimento di questo merito è stato essenzialmente retributivo. C'è qualche problema anche su questo fronte, Michele Dau? Ma vede, sulle retribuzioni non bisogna fare del moralismo facile. Io penso che chi lavora bene deve essere giustamente ben pagato. Il problema è che il manager non può però attribuirsi da solo il proprio risultato e la propria retribuzione. Noi siamo arrivati, in molte situazioni lo hanno dimostrato, anche in casi americani, in casi di altri paesi, anche in qualche caso italiano, dove molti manager, per vedersi riconoscere, diciamo, premi, stock option, risultati, hanno addirittura modificato i bilanci dell'azienda, hanno addirittura fatto delle cose che non si devono fare. Questo perché molti manager non hanno più sentito questo legame con la comunità, appunto, come dicevamo prima, dei consumatori, dei risparmiatori, dei propri collaboratori, cioè non hanno più questo riferimento con gli altri, di cui loro sono la guida, di cui loro sono l'orientamento, sono il coordinamento. Senza questo, senza questo rapporto stretto di un capitano con il suo equipaggio, non c'è figura manageriale e non c'è neanche un diritto ad una equa, anche valida retribuzione. La retribuzione può essere anche alta, ma deve essere fondata su questo riconoscimento reciproco tra il capitano e il proprio equipaggio. Ecco, c'è in conclusione un capitolo dedicato anche alle donne, ancora limitata la presenza femminile all'interno della casta manageriale, come la chiama lei. Qual è il problema di fondo? È ancora un problema, un po' di rigidità del sistema italiano. Ma in Italia è più limitata che altrove, siamo un 25% rispetto a un 35%, anche 40% di molti altri paesi. L'Italia purtroppo sconta chiusure antiche dove pregiudizi verso le donne, verso le loro capacità di equilibrio, di razionalità. Mi spiace dire questi termini, ma purtroppo è così. Anche se le donne, quando vengono messe alla prova, dimostrano di essere spesso non solo valide, ma anche più valide di colleghi dell'altro sesso. Quindi in realtà dobbiamo invece aprire molto, diciamo, alla componente femminile, alla componente dei giovani, anche, cioè a far arrivare anche figure nuove di giovani, diciamo, naturalmente ben formati. Tutto il tema, comunque, mi permetta di dirle, ritorna anche sulla parte formativa. Se noi non riprendiamo a investire nelle scuole di management e nelle scuole di responsabilità manageriale, noi non avremo mai tutte queste figure che ci servono, va bene, che sono migliaia, per gestire non soltanto le aziende private, ma anche i teatri pubblici, gli ospedali, le ferrovie, gli autobus, gli acquedotti, cioè tutto quello che c'è di organizzazione complessa ha bisogno di figure manageriali. Ecco, ma in questa prospettiva la scuola italiana, per non dire anche l'università, poi è in grado di formare questi manager, oppure copia un po' i modelli americani, che sono forse un po' più astratti, un po' più teorici rispetto all'esigenza dei manager che abbiano quella responsabilità di fondo, che è una responsabilità a 360 gradi, Michele Dau? Ma guardi, la scuola italiana non è da buttare via, insomma, la scuola italiana ha molte qualità in se stessa, sia nel livello dei contenuti che anche nel livello di molti insegnanti. Il vero problema è che noi, la nostra scuola è troppo lontana dal mondo del lavoro, è troppo lontana dall'impresa, è troppo lontana dalla concretezza della realtà produttiva. Bisogna creare in maniera forte dei percorsi che quando vedono il ragazzo a 14 anni già lo avvicinano a esperienze di lavoro. Questo è l'insegnamento anche del mondo anglosassone, va bene? Bisogna che il ragazzo capisca quanto prima possibile cos'è il lavoro, come si produce un bene, come si produce un servizio, impari questo crescendo anche come adolescente, naturalmente in periodi compatibili con lo studio, perché solo in questo modo, quando poi lui terminerà gli studi, lui avrà quella consapevolezza in base alla quale potrà poi anche fare delle scelte di preparazione manageriale, delle scelte di preparazione direzionale, che sono alla base anche di possibilità poi di formare una parte di capitale umano per dedicarlo a questo. Quindi bisogna che la scuola si avvicini al lavoro concreto, alla produzione concreta, e creare migliaia di queste opportunità che darebbero effettivamente ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, la possibilità di effettivamente formarsi non soltanto sul piano teorico, che su cui siamo certo molto validi in Italia, ma anche sul piano concreto. Non rimandare il lavoro a quando uno ha 30 anni. Quindi ci sono ragazzi che a 30 anni non hanno mai fatto un'esperienza di lavoro, e questo è drammatico. Ecco, per concludere, Michele Dau, proprio in una battuta, comunque, già mettere in luce i problemi e già fare un passo avanti per affrontarli. Possiamo leggere in questo modo il suo libro? Ma se lei ha fatto una sintesi che condivido pienamente, poi ognuno lo può leggere come vuole, se ha l'interesse di leggerlo, e questo mi fa piacere se questo avviene. Certamente io non mi sono limitato a una denuncia, perché le denunce, ahimè, di per sé sono sterili. Ho cercato di indicare anche delle strade che sono appunto il merito in senso pragmatico, non in senso soltanto di valore astratto, l'apertura alle donne e ai giovani, il primato della responsabilità, come lo chiamo io, cioè se non riportiamo al centro, anche nelle piccole situazioni, il senso di responsabilità del manager, il quale deve rispondere dei suoi risultati veri, non di quelli formalmente creati o artificialmente. Se non rimettiamo al centro questi aspetti, vorrei dire basilari, è difficile uscire da questa crisi italiana così radicale. Grazie Michele Dau. Il libro di cui abbiamo parlato è Il tradimento del manager, edito da Castelvecchi, sono 128 pagine per 14 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina per settimana prossima.